Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it. Non so, questo film, perché se ve lo ricordate, la colonna sonora è quella, è del film The Millionaire. Voi dite, ma perché nella programmazione di Radio Stonata vanno così indietro nel tempo? No, perché oggi ho visto la pubblicità del film che lo rifanno in TV e quindi che ho detto, apriamo la trasmissione con la colonna sonora del film. Vabbè, lasciate stare queste pippe mentali che mi faccio, ma soprattutto io do il benvenuto, il buonasera e la ben ritrovata alla nostra Elena Nebbiolo di Non Solo Turisti.it. Ciao Elena, buonasera e ben ritrovata. Ciao Beppe, buonasera a tutti. Allora Elena, per chi si è perso la puntata della scorsa volta, di che, perché tu ci sei stata la scorsa volta e ci sarai anche la prossima puntata, non l'8 di dicembre ma l'altra, che non mi ricordo che fine settimana è, però di che cosa abbiamo parlato settimana scorsa? Abbiamo parlato di Colombia e continueremo a parlare di Colombia. Lo sai che mi sta appassionando la Colombia ultimamente? Tu sai anche il perché. Non mi dire che hai iniziato a guardare Narcos. No, sì, Narcos, però ancora non messi, anche se qualcuno mi ha consigliato di vederli contemporaneamente tutti e due. No, beh, no, inizia dall'inizio, però ti ricordo che in diretta, e ci sono un sacco di testimoni, hai detto non lo guarderò mai, ti è bastato parlarmi 2 minuti, ti sei convinto, hai iniziato a guardarlo. Questo mio potere di persuasione mi piace molto. Ah, ok, vabbè, ma ci sei riuscita. E quindi, mo come facciamo? Adesso mi basta provare a convincerti ad andarci in Colombia. Infatti, allora, quindi... Provo a fare questo. Va bene, quindi mo ci proviamo. Però, sai cosa ti volevo chiedere? Lo facciamo un breve riassunto di settimana scorsa? Sì, va bene. Settimana scorsa abbiamo parlato di come ho organizzato il viaggio, quindi dell'importanza dell'organizzare bene un viaggio in Colombia, perché la Colombia è un paese enorme, per cui bisogna capire bene a che cosa dare la priorità e come muoversi, perché sebbene avessi 3 settimane, che non sono poche, però il paese è enorme. E poi vi ho portati nella capitale, a Bogotà, dove non sono andata a vedere il Museo di Botero, ricordiamolo. E poi vi ho portati a Zipaquirá, che è un posto a 1.5 ore da Bogotà, a visitare la Cattedrale del Sale. E poi in quella prima puntata con te, in cui abbiamo parlato di Colombia, ci hai detto che sei rimasta affascinata da cosa? Cioè, cos'è che ti aveva poi colpito, che hai detto ne parlerò la prossima puntata? E quindi siamo a questa puntata, quindi parliamo di cosa? Di foresta amazzonica, mi sembra, no? Sì, avevo parlato di 2 posti che mi sono rimasti nel cuore e oggi vi parlo del primo di questi 2 posti, che è la foresta amazzonica, che è stata appunto la mia seconda tappa. Da Bogotà ho preso questo aereo che mi ha portato a Leticia, che è il punto di partenza per tutte le escursioni nella parte di foresta amazzonica colombiana. Che poi non è solo colombiana, perché essendo comunque al confine, Leticia, in realtà abbiamo anche superato il confine, abbiamo fatto anche un pezzo di Amazzonia in Perù, insomma, lì è facile varcare il confine. E niente, è stata un'esperienza veramente strabiliante, perché io non ero mai stata nella foresta amazzonica e, come racconto dall'articolo, già dal volo valeva la pena, quasi già soltanto per il volo, perché a un certo punto l'aereo inizia a sorvolare questa foresta che man mano si fa sempre più fitta, e per quasi un'ora abbiamo sorvolato un'area completamente ricoperta da alberi. Ogni tanto si aprivano, facevano intuire qualche villaggetto, però per lo più una vista veramente mozzafiato già dall'aereo. Ma io sono, cioè, sulla pagina Il Viaggio, la pagina Facebook, c'è il link, perché così chi è in diretta con noi può appunto leggere l'articolo, ma anche ascoltare il racconto della nostra Elena. Elena, ma sai che cosa mi ha colpito? Che poi, vabbè, io l'ho capito perché ho letto l'articolo. Perché non vedevi l'ora di scriverlo, questo articolo? Cioè, cosa... Perché ti avevi il prurito al dito e alle dita per scrivere? Sì, Sì, non vedevo l'ora, ma perché devo dire che poi è normale, credo che per chiunque scriva dei viaggi, arrivare poi a parlare dei momenti più entusiasmanti è la parte più bella, mm-hmm. è la parte più bella perché poi traspaiono anche, credo, dalle righe le emozioni che si sono provate e quindi urgeva per me scrivere di questa esperienza perché è stata bella sin dal primissimo giorno, appena atterrati. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere questa guida, questo Max, un uomo decisamente fuori di testa, devo dire. Un uomo? Ma decisamente fuori di testa, nel senso eclettico, definiamolo un personaggio molto eclettico, ma in senso positivo, anche il mio fuori di testa in senso positivo, un uomo assolutamente innamorato della sua terra, che ci ha trasmesso questo amore, tant'è vero che lui è venuto a prenderci all'aeroporto e in teoria dovevamo vederci la mattina dopo, invece lui ci ha subito detto: se sistemate la vostra roba in camera io vorrei portarvi subito in un posto. Questo posto, ti assicuro che appena durante la mia lettura dicevo: ma dove li porterà mai? Cioè, perché vedevi le foto, no? Però non è che... Però appena poi l'ho letto, ma guarda un po', che è una cosa che ci accomuna questa passione, diciamo. Eh sì, da quello che ci siamo detti fuori onda, direi proprio che ci accomuna. In realtà la mia è nata lì come passione, perché lui appunto ci ha prelevati all'albergo e Letizia non è un bel paese, non si può dire che sia bello come posto, e ci ha portato nella piazzetta principale, una piazzetta con degli alberi, una chiesetta, sì, carina, ma niente di speciale. Ci ha detto: sedetevi sulle panchine, aspettate. C'eravamo noi, due anziani, e nulla intorno. E quindi ci chiedevamo: ma che cosa stiamo facendo qui? E lui continuava a guardarci, ci faceva segno come dire: aspettate, aspettate. E la meraviglia non ha tardato ad arrivare, perché quello che è successo col tramontare del sole, che abbiamo iniziato a vedere dei pappagalli in cielo, poi sempre di più, sempre di più, sempre di più, a un certo punto c'erano centinaia, migliaia di pappagalli che ci volavano sulla testa, che ci ha spiegato la nostra guida che erano pappagalli che dalla foresta andavano a cercare gli alberi della città per tenersi lontani dai predatori notturni, quindi cercavano un posto sicuro per il loro riposo. Ma ti dico che a un certo punto noi non riuscivamo nemmeno a parlare tra di noi, talmente tanto era il frastuono, e vedere questo cielo completamente ricoperto da stormi di pappagalli, beh, è stato, devo dire, un battesimo amazzonico. Io mi sono commossa, ammetto che ho anche pianto in quel momento, perché era uno spettacolo incredibile. Coloratissimi, immagino, no, questi pappagalli? Assolutamente sì, coloratissimi, erano di diversi colori, ce n'erano diverse specie, perché poi arrivavano stormi diversi tra di loro, difficile fotografarli perché gli alberi erano molto alti, per cui non si riuscivano a riprendere bene. Infatti ti devo dire che per la prima volta a un certo punto ho posato la macchina fotografica e mi sono goduta lo spettacolo, perché era una cosa più da vivere che da riprendere questa. Infatti, e invece noi, se posiamo invece il microfono un attimo, ci facciamo una piccola pausa pubblicitaria e ritorniamo in diretta dopo una canzone ancora con te per parlare del tuo secondo giorno nella foresta amazzonica. Va bene, a dopo. Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it. J-Ax qui su Radio Stonata, siamo arrivati così in diretta perché tanto noi non siamo... il mio regista dall'altra parte del vetro non mi ha avvisato. Io e Elena ci stavamo facendo una chiacchierata. A proposito, siamo sempre in compagnia della nostra Elena Nebbiolo, che ci sta raccontando il suo viaggio in Colombia. La prima puntata, sabato scorso, ne abbiamo parlato, i preparativi e tutto il resto. Adesso siamo entrati nel suo viaggio vero e proprio, quindi la Colombia, la foresta amazzonica. Ci ha parlato del suo primo giorno nella foresta amazzonica, vero Elena? E poi di questa splendida giornata la sera appena siete arrivati, la vostra guida Max vi ha portato in un posto fuori città per vedere questi pappagalli. E adesso il secondo giorno cos'è successo, Elena? Siamo curiosi. Il secondo giorno abbiamo preso una barca, mm-hmm, e abbiamo navigato il Rio delle Amazzoni. Sai, è un po' come quel sogno da bambino, quando si sognano determinati miti o posti. Insomma, io già da bambina sognavo di viaggiare, e ci sono certi miti, portati probabilmente anche dal cinema, un po' all'Indiana Jones. Ci siamo sentiti dei piccoli Indiana Jones, perché insomma ci stavamo rendendo conto che stavamo navigando il Rio delle Amazzoni. Comunque, insomma, il signor Rio delle Amazzoni. E navigando, dico, con quasi 3 ore di navigazione, siamo arrivati a quello che si chiama il Maikuchiga Mountains Sanctuary. Quindi il nostro secondo giorno è stato tutto dedicato a questa riserva, dove fondamentalmente abbiamo fatto degli incontri con un sacco di scimmie. Io adoro le scimmie, non capisco più niente io quando vedo le scimmie, perché le trovo divertentissime. Questa riserva fa delle cose molto serie, perché la prima cosa è educare la popolazione locale alla preservazione delle specie di scimmie, quindi a non cacciarle. Quindi è una fase di educational molto molto importante per la popolazione locale. E in più ovviamente tiene sotto controllo alcune specie, in particolare la Woolly Monkeys, che nel mio articolo fotografo, che è una scimmia, devo dire, non bellissima, ma molto fotogenica. Ed è... Sì, ho adorato fotografarla, perché se la vedi così non è bellissima, ma ha delle espressioni così umane. Che è quella seduta sul tronco dell'albero, la foto, no? Bravo, bravo, proprio quella. Dimmi se non è estremamente umana, sì, anche con l'espressione. Sono curioso, che guardava il cielo? Cosa faceva? No, no, stava guardando il cibo, perché con quello sguardo così adorante, scimmie e uomini guardano solo il cibo. In questo siamo assolutamente uguali, e siamo uguali in tante cose, come ti raccontavo fuori onda, io, perché poi l'incontro con le scimmie è veramente molto ravvicinato, me le sono trovate in testa, e io avevo il kiwi, perché poi, ecco, una raccomandazione: se uno va nella foresta amazzonica, anche nella stagione secca, premunitevi di qualunque cosa per ripararvi dalla pioggia, perché ci siamo presi degli acquazzoni pazzeschi. Comunque avevo il kiwi, avevo dentro la tasca la custodia della macchina fotografica, avevo dei fazzoletti, e queste scimmiette cercavano di portarmi via qualunque cosa. Era la caccia a veramente a cercare di non farci rubare nulla dalle scimmiette. Però figurati, è stata un'esperienza anche questa sbalorditiva, perché un incontro così ravvicinato non ce l'avevo avuto in un ambiente così. Quindi proprio ci siamo fatti un'ora di trekking all'interno della foresta, con una guida che ci ha mostrato veramente un sacco di cose, quindi super emozionante anche questo incontro. In più poi siamo andati a Puerto Nariño, che è a mezz'ora di navigazione da questa riserva, un paesino stupendo rispetto a Letizia, molto bello, molto ben curato, e qui abbiamo fatto un'altra esperienza riprendendo un'altra barca, e siamo andati a vedere i delfini rosa, che sono autoctoni di questa zona del Rio delle Amazzoni. Siamo stati fortunati, siamo riusciti a vederne tanti. Per poi il terzo giorno fare un altro trekking nella riserva Marajà, invece, dove abbiamo fatto una vera full immersion nella natura. Abbiamo visto questa specie di rana piccolissima ma estremamente velenosa, e io ho avuto un incontro ravvicinato con un serpente. Ma la rana piccolissima è quella che si vede la penultima foto, cioè bisogna stare... Esatto. E sei riuscita a fotografarla? Scusa? Sei riuscita a fotografarla? L'ho fotografata così, come la vedi? Più vicino, no? Anche perché, ripeto, è una rana estremamente velenosa. Ma velenosa perché? Velenosa perché? Ecco, qui qui inizia l'angolo quark. Io non lo so perché, suppongo che sia velenoso toccarla. Ah, okay. Ma a questa domanda specifica non saprei rispondere, ma potremmo contattare in diretta Piero Angela e vedere, okay, se ci può dare. No, se mi fai, no, fare la chiamata. Ho fatto una domanda impossibile, lo sapevo, io non dovevo farle le domande impossibili. No, ma la fai sempre, la fai sempre. Io sono pronta. Aspetta, no, no, ma ci dobbiamo, ripeto, documentare. Ho una serie di numeri di aiuti da casa, tra i quali ho anche Piero Angela, per cui se vuoi lo chiamiamo gli chiediamo perché questa specie di rana è velenosa. Mannaggia. No, è veramente, no, sta cosa mi incuriosisce, perché è così piccola, cioè, ma nella foto io ho fatto fatica a trovarla, cioè. Lo so, cioè, ma poi a fianco c'è una foglia, stata... c'è una foglia che penso che non sia così enorme, quella foglia, quindi, cioè, un esserino così piccolo che sia velenoso, va bene. No, e poi invece curiosità delle curiosità, il serpente. Raccontaci la storia del serpente. La storia del serpente è un po' meno Indiana Jones, devo dire, perché banalmente io sono andata in uno di questi bagni che si trovano nella riserva, quindi queste strutture in legno. Vado in bagno, esco dal bagno, accendo queste scalette di legno, e a un certo punto mi sento una mano che mi prende il braccio, c'era un ranger che mi dice di girarmi. Praticamente, dove ero appena passata tra le assi di questo bagno, c'era un bellissimo serpente verde fosforescente, praticamente, che si ergeva. Io ho preso un mezzo infarto, perché ho pensato che se io, uscendo proprio dalla porta del bagno, me lo fossi trovata davanti, probabilmente, ecco, no, non sarei qui a raccontare questa esperienza, per poi scoprire che non era assolutamente velenoso, e anche lui molto fotogenico, perché poi, sai, si diventa subito molto temerari nel momento in cui si capisce che il serpente non è velenoso. Gli ho scattato 1000 foto. No, sta cosa è bellissima del serpente, vabbè, io penso, io pure ho un po' di, cioè, mi diventa la pelle d'oca a vedere alcuni rettili, tra cui anche il serpente, quindi concordo con te, Elena. Sì, ma più che altro è perché io non ho paura di base, cioè io sono aracnofobica, ho il problema dei ragni, non tanto dei serpenti, però è la nostra normale ignoranza su quali specie siano velenose o no, per cui è una normale paura quella, se vedi, poi sai dove sei in Amazzonia, se vedi un serpente pensi subito che sia velenoso. Invece non è assolutamente detto che sia così, però non conoscendo è meglio starne alla larga. Ah, okay. Questo sicuramente, anche perché per tanto che uno si informi e studi, dubito che si possano conoscere tutte le specie di animali che ci sono nella foresta amazzonica, perché, come sappiamo, è veramente di una ricchezza pazzesca a livello di flora e di fauna. Su questo hai ragione. Già. E che dire, c'è, quindi? C'è qualcosa che non mi hai raccontato e mi vuoi raccontare? Perché il nostro tempo sta per terminare. Il nostro tempo sta per terminare. Ma allora, c'è una cosa che, sai, si dicono sempre tutte le cose belle, tutte le cose meravigliose. Come in tutti i viaggi, io lo dico sempre, è importante dire anche le imperfezioni. Noi il terzo giorno ci siamo fatti convincere dalla Lonely Planet a visitare una riserva che si chiamava Mondo Amazzonico, ed è una cosa che, per esempio, io consiglio di non fare, perché avremmo potuto fare altre esperienze, come nei due giorni precedenti, estremamente esaltanti. Mondo Amazzonico è una cosa molto più turistica, per carità, anche lì con tutto il buon intento di istruire soprattutto i bambini, ma è un parco molto più artefatto, non dà questa possibilità di immergersi, di sentirsi veramente immersi dentro la foresta amazzonica, per cui sbagliando si impara. Finisco con la frase più banale del mondo, ma viaggiare è anche questo. Infatti. Ed è anche ammettere l'imperfezione di un viaggio, ma più che di un viaggio, anche perché non è che il viaggio è stato assolutamente determinato da questo, ma si possono prendere anche delle decisioni sbagliate. E poi un ringraziamento a Max, no? Un ringraziamento a Max, assolutamente, che ci ha anche fornito il suo prodotto speciale di bellezza, ovvero la cachita de formica per le maschere facciali. Lui è ancora convinto che un giorno diventerà un grandissimo businessman, riuscendo a vendere in tutto il mondo la sua cachita de formica. Quindi... che qualcuno di noi ha anche provato, però devo dire, e devo dire che poi i risultati si sono anche visti. È un po' l'impressione di mettersi questa cosa, che uno sa che cos'è, che cacca di formica. Ma se un giorno Max diventerà milionario, io dovrò rintervenire in radio e scusarmi con lui per essere stata. Infatti, questo lo dovrei fare. Elena, che dirti, grazie, e ci sentiamo fra due fine settimana, fra un fine settimana, cioè il prossimo non ci siamo perché facciamo ponte e ritorniamo appunto, di che cosa ci parli la prossima volta? La prossima volta si parla delle colline del caffè. Ah, okay. Ah sì, che me ce l'avevi anticipato la puntata scorsa. Va bene, grazie a Elena Nebbiolo e ci sentiamo il sabato 15 di dicembre. Ciao Elena! Ciao Beppe! Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it